140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi di spettacoli questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo l'account @140caratteriR24 o la nostra pagina Facebook ufficiale 140 caratteri. Come ogni settimana, mano a mano, ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Televisione e teatro nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Stazione Centrale, Milano. Freccia Rossa da Roma a Milano, i fan ad attenderli in ogni stazione. Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci nel Cesaroni Day per il ritorno in TV. Claudio Amendola, ti faccio subito la domanda da 20 milioni di dollari. Qual è il segreto per una serie che dura così tanto, funziona così bene e si rinnova negli anni? Ma il segreto credo sia il fatto che le storie e i personaggi siano riconoscibili. Penso che la gente si identifichi abbastanza nei nostri personaggi e nelle nostre storie. Credo che altra cosa importante sia il fatto che facciamo ridere, che si ride, ci si diverte, ci sono anche dei momenti di grande commozione. E penso che sia un po' questo. Probabilmente il successo è quello di non aver rinnovato più di tanto. Ragazzi, allora, magliette dei Cesaroni, state aspettando i Cesaroni, sì, alla stazione? Sì, adesso arrivano, tra un po' arrivano i Cesaroni, no? E facciamo l'autografo, la foto, quella perché cosa. Perché vi piacciono i Cesaroni? Fanno ridere, fanno e trasmettono alle famiglie italiane come è fatta veramente una famiglia e tutto quanto. Sì, sono pienamente d'accordo. Perché rappresentano un po' la famiglia italiana, ci fanno ridere, insomma. Perché sono uguali a noi, diciamo. Siete la famiglia italiana per eccellenza, io l'ho chiesto anche ai vostri fan che vi aspettavano qua alla Stazione Centrale. La famiglia italiana è un po' cambiata perché sono un po' cambiati i tempi. Voi affronterete un po' i tempi nuovi, la crisi, le difficoltà? Ma guarda, la crisi sinceramente no, non mi ricordo. Non c'è in questa. Però secondo me è anche giusto, insomma. Poi è un tema talmente profondo, talmente importante, che non credo che debba essere trattato con leggerezza come noi trattiamo i temi. E poi forse queste due ore devono in qualche modo servire per un pensarci alla crisi, insomma, perciò non sarebbe stato giusto, secondo me. Vi abbiamo accolto a Milano con un diluvio delle grandi occasioni, perché insomma è così che vi immaginate Milano, voi romani. Ma guarda, io grazie a Dio ho la fortuna di starci spesso a Milano, ci ho lavorato tanto e so che ogni tanto c'è pure il sole. Però voi siete un grande simbolo di Roma, addirittura avete contribuito alla fortuna di un quartiere, alla fortuna immobiliare di un quartiere. Avete incarnato un po' l'anima di Roma, lo senti questo? Ma io penso di sì. Noi abbiamo raccontato una Roma un po' sparita, che invece non era così tanto sparita. Non a caso si stanno molto rivalutando le periferie a Roma. Abbiamo questo piccolo merito, ma soprattutto questa grande opportunità di avere quartieri come la Garbatella a Roma, e perciò averla scoperta, averla fatta scoprire è un bene che abbiamo fatto alla città, al quartiere, ma è un grande vantaggio che ci siamo presi noi. Io e papà siamo andati in Sardegna da soli per un mese. La Sardegna è una terra molto selvaggia e ci ha insegnato ad affrontare le nostre paure. Certo, Mimmo, siamo stati benissimo, la Sardegna è bellissima, però Roma è meravigliosa. Cos'è? Non me la ricordavo così bella. Papà se la ricordava più brutta, perché quando siamo partiti era molto triste. Figlio del più immenso doppiatore italiano e padre adesso di una delle voci più belle del doppiaggio italiano. Come ti senti? Molto orgoglioso, molto contento, molto fiero di quel giorno in cui Alessia, per caso, per scherzo, ha doppiato un bambino che faceva una scena con me, e c'era il direttore del doppiaggio, era mio padre. Sto bambino non si riusciva a doppiare, poi è andato via e papà ha detto: Alessia, fallo te, provaci te. C'aveva 6 anni Alessia, e ci siamo guardati come veramente stupiti, perché immediatamente aveva il dono per fare questo mestiere, che è un mestiere difficilissimo. Chieri e Pannofino è un mestiere veramente complicato, quindi molto orgoglioso. Ultima domanda, so che non si può sapere niente del fatto che tu adesso stai girando un nuovo film, però perché hai deciso di fare regista? Perché è il lavoro che ambisco a fare, perché mi piace moltissimo, perché adoro gli attori, li voglio dirigere, perché mi piace raccontare delle storie, perché voglio evolvermi, perché voglio crescere. Ho fatto 31 anni l'attore e mi piace oggi pensare di fare pure qualche altra cosa. Non bisogna aver paura di... Lucia. Sì, anche di Lucia stavo parlando. No, Lucia sta lì, papà. Ah, ciao. Ciao, ciao Mimmo, ciao Giulio, come state? Bene. Bene, siete tornati dalle vacanze? Sì, sì, è tutto bene. Vedo che tu sei ancora a Roma. Ah, sì, ho avuto un piccolo problema, aspetta che ti racconto. No, guarda, Lucia, stiamo bloccando il traffico, dai, è meglio che... Eccola Sofia, abbiamo dovuto fendere la folla per arrivare a te e metterti in salvo. Com'è questo entusiasmo per i Cesaroni? È una cosa incredibile, veramente emozionante. E ogni volta è inaspettata, perché penso che a un certo punto uno poi si sia anche un po' stufato, no? Di sempre loro. Cioè, capisco dopo il primo anno, il secondo, e invece dopo tutti questi anni ancora tutta questa passione, questo entusiasmo, così è una cosa bellissima. Per te è un ritorno, come è stato decidere di ritornare? No, io avevo promesso che sarei tornata nella quinta serie al produttore Carlo Bixio, che è stato un mio carissimo amico e quasi un padre, che ci ha lasciato, e quindi gliel'avevo promesso, e figuriamoci adesso, non avrei potuto non mantenere la promessa, no? Com'è stato tornare in questa? Noi ci immaginiamo i Cesaroni come una famiglia vera, quindi non deluderci, davvero si respira quel clima? Beh, guarda, è molto divertente, cioè i primi 4 mesi poi era un po' che non stavamo insieme, quindi io sono tornata ancora più gasata, no? È stato bellissimo, poi c'è un po' di stanchezza perché sono 11 mesi di riprese, significa che per 11 mesi comunque ti svegli alle 5 e mezza, alle 6 la mattina, lavori 12-13 ore. Uno non si immagina mai che il nostro lavoro sia così faticoso d'estate, d'inverno, col caldo che ha fatto quest'estate, col freddo che ha fatto lo scorso inverno per i Cesaroni, perché abbiamo iniziato a luglio e abbiamo finito a maggio, quindi insomma, no, è tanto lavoro, però intanto noi siamo troppo privilegiati perché facciamo coincidere la nostra passione con il nostro lavoro, e questo è un privilegio molto grande. Quindi, nonostante la fatica fisica, è stato bellissimo. Girare la serialità e girare film è una vita diversa. Molto diversa. Nella serialità lavori per 10 mesi, ha una media di 7, 8, 10 scene al giorno. In un film lavori 8 settimane, una media di 2 scene al giorno. Io, allenata come sono a fare le lunghe serialità, quando mi trovo sui 7 cinematografici mi annoio, perché sono lentissimi, mi sembrano lentissimi. Poi chiaramente si vivono le cose, si lavora con altri tempi e una maggior cura, però è vero che noi, che abbiamo fatto tanta televisione, siamo super allenati a dei ritmi bestiali. Mediateca Santa Teresa, Milano. In TV c'è voglia di sapere. Documentari, approfondimenti, nasce il canale Dea Sapere. Lo dirige Massimo Bruno, che dice c'è un vento nuovo. Sì, in effetti ci sono molte domande nell'aria, come si dice. In un periodo soprattutto di crisi c'è molta voglia di sapere per crescere, per appunto imparare, diciamo così. Poi dipende dalle diverse età appunto del target. Abbiamo deciso di investire su Dea Sapere perché poi in Italia in particolare si è un po' persa la tradizione documentaristica di divulgazione scientifica. Esistono tantissimi canali di divulgazione che vengono dall'estero, fatti benissimo, però in realtà un canale veramente italiano, con talenti italiani, con esperti italiani, con temi anche legati alla realtà italiana, non esisteva. Quindi Dea Sapere farà questo, risponderà anche un po' alle domande degli italiani di tutti i giorni, alle curiosità, alla voglia di crescere, alla voglia di imparare, che c'è nell'aria. Tanti temi, dagli animali alla vita quotidiana, qual è il vostro filo conduttore? Beh, De Agostini si è sempre distinta sul sapere omnio, diciamo così, sapere che affronta tutti i temi legati alla vita nostra di tutti i giorni, quindi dalla storia, alla natura, agli animali. Il filo conduttore è sempre trovare il modo migliore per rendere accessibile questo sapere, cioè trovare la chiave, anche grazie alla produzione originale, che ti renda possibile imparare, appunto sapere qualcosa da quello che ascolti. Perché una cosa è avere una conoscenza, una cosa è divulgare conoscenza, quindi lo faremo attraverso appunto sitcom, lo faremo attraverso il formato dei reality, lo faremo attraverso dei lunch, lo faremo appunto girando documentari. L'importante è rendere accessibile questo sapere. Ci ritroviamo tra poco con 140 caratteri per parlare di teatro e ancora TV. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa, TV e teatro, nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Spazio VAT 10, Milano. Il boss TV più famoso d'America è Donald Trump. Arriva anche in Italia su Cielo The Apprentice. E il nostro boss sarà Flavio Briatore. Radio 24 e Sole 24 Ore. Ciao. Però qui alla presentazione. Un raggio di sole in questa giornata solare. Però qui le fanno parlare tutti di Berlusconi, ma io voglio parlare di The Apprentice. Sì, com'è stata questa esperienza? Allora, come ho detto prima, è stata un'esperienza eccezionale. Mi hanno tirato dentro così piano piano, dicendomi che no, mezz'oretta, un quarto d'ora, 18 minuti, e poi è stato veramente un lavoro impegnativo. Però devo dirti che è stata una squadra, la squadra è stata fantastica, tutti quanti, il gruppo, un gruppo eccezionale di ragazzi bravissimi, e i nostri apprentice molto bravi, e alla fine è stato anche molto difficile continuare a mandar via gente brava, per cui la parte finale è stata molto difficile anche per me, perché dovevo mandar via della gente che forse non se lo meritava, però io devo scegliere il migliore e spero di esserci riuscito. Ora Flavio Briatore cerca il nuovo numero uno a cui offrire l'occasione della vita. Queste sono le sue regole per vincere. Regola numero uno: il successo è sacrificio. Emergere è difficilissimo, devi lavorare duro, devi essere pronto a masticare il filo spinato. Regola numero due: non devi arrenderti. Quando nella tua vita succede qualcosa che non è positiva e hai la forza di capovolgerla, allora sei un grande. Regola numero 3. Devi provare qualcosa a te stesso, non agli altri. Io sono partito dal gradino più basso e ancora oggi sono ambizioso, arrabbiato, affamato. Devi essere un buon coach. Devi saper gestire gli altri, motivandoli, aiutandoli, rendendoli fedeli. Regola numero 5. Sul lavoro non ci si diverte. Per me il lavoro è una cosa molto seria. Se ti stai divertendo, probabilmente non stai lavorando bene. Cosa ha rubato dal suo amico Donald Trump nella versione americana e cosa ruberà a Donald Trump quando vedrà la trasmissione sua? L'America è un'altra roba. L'America, lo dicevo prima, quando uno parte da zero e fa bene, lo adorano. In Italia, quando parti da zero e fai bene, cercano di buttarti giù tutti i giorni, perché c'è sempre il sospetto: cosa ha fatto 82 anni fa, dov'era, com'era. È un mondo diverso. Io credo che Donald ha dimostrato che uno può cadere e risalire, perché in America ti applaudono quante volte risali da un dramma, in Italia se cadi una volta sei rovinato. Per cui è tutta un'altra cultura, è una cultura della meritocrazia, qui in Italia c'è la cultura dei rosigoni. Lei conosce bene il mondo dello sport, il mondo dell'imprenditoria, com'è il mondo della televisione? Allora, televisione è stata una sorpresa, perché è molto difficile, fare televisione è difficilissimo, e il mondo della televisione è un mondo competitivo, un mondo dove i ragazzi sono bravi, vogliono far bene, è fantastico, vedi della gente che ha molta professionalità e lavorano molte ore senza. Noi facciamo delle non stop, perché poi io avevo limitato 2 giorni per fare tutto, per cui se io chiedevo di rimanere 1 ora, 2 ore in più, nessun problema, e sono stati molto molto flessibili, eccezionali. Lo farebbe il produttore televisivo? Sì, sicuramente, no, sicuro, non c'è problema, credo di poterlo fare. Non preoccuparti di ciò che dicono di te. Il successo è la miglior vendetta. Regola numero 7. Ricordatevi che il business non dorme mai. Non devi sottovalutarmi mai e non devi sopravvalutarti mai. E soprattutto non pensare di essere insostituibile. Il libro delle scuse con me ha poche pagine. Se sei arrogante sei fuori. Se sei un cretino sei fuori. Se fai troppa teoria sei fuori. Regola numero 10. Il boss ha sempre ragione, anche quando ha torto. Le chiedo un'ultima cosa, lei ha parlato con entusiasmo dei giovani e in lei ricorrono le parole luce ed energia. C'è una speranza, lei è ottimista? Sì, la speranza c'è, se no, cioè, basta che questi qui non continuino a dire delle robe che spaventano tutti. Questi qui, se uno c'ha l'influenza, dice che c'è un tumore. Per cui l'Italia deve vivere di ottimismo un attimo, non solo di pessimismo, di repressione, perché quando li vedi questi politici ti tocchi, perché ogni volta sono delle tragedie che sono nate negli ultimi 6 mesi, perché un anno fa tutte queste tragedie non c'erano. Poi fanno di tutto per spaventare la gente, qui è un paese spaventato, ci vuole un attimo di ottimismo anche per dare della speranza alla gente. A proposito di spavento, lei mi faceva molta paura, ma dopo questa intervista mi tiene nel casting o mi caccia? Ti tengo assolutamente, ti caccio alla prossima puntata. Teatro Manzoni, Milano. Il Vizietto a teatro con il duo Iacchetti Columbro. A Milano sarà per Natale al Manzoni, che così presenta la nuova stagione. Marco Columbro. Sarà una bella tosta, perché io il musical non l'ho mai fatto, ho sempre fatto prosa pura, e quindi sarà un debutto per me in certo qual modo. Ma è bello, perché tanto sono con un amico, con Enzo, in cui c'è un bellissimo rapporto. Poi lo spettacolo, uno spettacolo che ha avuto grande successo in Italia la scorsa stagione, è uno spettacolo di già la storia stessa, una bellissima storia, cioè, un gran divertimento, quindi senz'altro il Manzoni ci porterà fortuna e sarà una grande serata. Tra l'altro la Casa Folla ha avuto anche un grandissimo successo al cinema e lì ci sono dei... non era un musical, ma c'erano degli attori straordinari. E infatti dovremmo non fare brutta figura, io che interpreto la parte di che fu del grande Tognazzi, di Renato, io sempre, ho già quando feci Tuzzi, addirittura c'era Dustin Hoffman dietro di me, per cui, e per fortuna andò molto bene, fu un grande successo, quindi spero che anche questa volta mi porti fortuna. Le grandi sfide che ho sempre accettato le accettate con la mente sgombra e con grande cuore, quindi farò lo stesso questa volta. Nonostante l'aria di crisi c'è grande entusiasmo. Nei momenti di crisi ci deve essere grande entusiasmo, perché proprio nei momenti di crisi bisogna tentare di far cose che riescono ad acchiappare il pubblico, a far non dimenticare loro che noi ci siamo, il teatro c'è, è presente, è qui per supportare la cultura, il divertimento, la piacevolezza di questi momenti che a me non sono molto piacevoli, insomma. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana, ma da oggi e per le prossime domeniche vi invitiamo a venire con noi alla Mostra dell'Anno. Una serata speciale per gli ascoltatori di Radio 24 per visitare insieme a noi, con delle guide d'eccezione, la Mostra Picasso, capolavori del Museo Nazionale Picasso di Parigi a Palazzo Reale a Milano. Ogni settimana sceglieremo un'opera di Picasso e vi chiederemo di commentarla con un tweet. I migliori della settimana si conquisteranno l'accesso a questa serata speciale il 24 ottobre. L'opera di questa settimana, ve la segnaleremo anche via Twitter e Facebook, è Pipa, bicchiere, carta da gioco. Aspetto i vostri tweet. Intanto continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche con la nostra pagina Facebook 140 caratteri. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.